Letture di Radio 24. Se da una parte sembra inevitabile che l'informazione si trasferisca sempre di più sui social, dall'altra si conferma l'idea che l'uso che si fa dei social porti ad un'informazione poco attendibile, capace di produrre bufale e complotti che distorcono quanto passa attraverso la rete. Un paio di studi recentissimi, uno dei quali italiano, confermerebbero la sensazione generale che va sempre più montando in questi mesi, scrive Stefano Cosimi su Wired. Sono due studi certo diversi, quello dell'IMT, Alti Studi di Lucca, appena uscito su Proceedings of the National Academy of Science, e quello di qualche settimana fa pubblicato su PeerJ Computer Science, basato su 1,3 miliardi di post e 100 milioni di visite sul web. Il primo ci racconta in sostanza quali fattori influenzano la diffusione della disinformazione: bufale, complotti, teorie cospirazioniste di vario sapore e origine. Il secondo, dell'Indiana University, se ne pone in qualche modo come origine e al contempo conseguenza. Ci spiega infatti che se le fonti che costituiscono la nostra dieta informativa quotidiana sono prevalentemente le piattaforme social, tenderemo a rimanere estremamente più poveri quanto a ricchezza e diversificazione delle notizie. Curioso, tuttavia, che entrambi usino figure simili per spiegare l'immaturità assoluta dei social network quali piattaforme per la circolazione di notizie verificate e soprattutto per la creazione di un dibattito dignitoso che possa davvero arricchire chi li frequenta con costanza. La figura è appunto quella della bolla o della camera di risonanza, cioè di ambienti digitali poveri di utile contraddittorio e ricchi di opinioni deboli, vittime di poche fonti a loro volta rilanciate da comunità personali che ciascuno costruisce accettando o meno nuovi contatti, rimuovendone di vecchi e legandosi agli aggiornamenti di certe pagine, estremamente polarizzate, i cui membri, come in nuove confraternite digitali, tendono a consumare lo stesso genere di informazione. Bolle sociali collettive le chiama invece la ricerca statunitense, che si concentra, al contrario, sull'origine di ciò che ci bombarda. In poche parole, da dove arrivano le notizie, ponendo in evidenza una mutazione micidiale nella ricerca dell'informazione. La scoperta si è trasformata da un atteggiamento individuale a un tentativo sociale, quello appunto delle confraternite digitali che pongono un fatto, più spesso un fattoide, sul tappeto, lo dissezionano sulla base dei propri pregiudizi ed escludono, spesso violentemente, chiunque tenti di dare una versione diversa. Sempre più ricerche ci confermano dunque che questo è il pessimo stato in cui versano i social network, quelle piattaforme su cui trascorriamo molte ore al giorno, qualcuno più di quante ne passiamo a letto, pensando perfino che ci aiutino a tenerci informati, a stare sul pezzo, ad avere opinioni originali e aggiornate. In definitiva, che ci arricchiscano. Banalmente, non è così. O è sempre più difficile che questo arricchimento si verifichi. Anche in questo caso tende infatti a generarsi un meccanismo d'élite, di attento filtraggio e selezione della propria rete di contatti, che solo una limitata porzione degli utenti è in grado o ha voglia di sfoderare. In un faticoso lavoro di controllo non solo dei nostri, di contenuti e atteggiamenti, ma anche di quelli delle persone a cui abbiamo assegnato, spesso con troppa leggerezza, l'enorme potere di scaraventarli ogni minuto nella nostra bacheca. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Simone Cosimi, Bufale, i social network ci informano davvero? Pubblicato il 5 gennaio sul sito wired.it. Radio24.it è sempre con te, anche in viaggio. Consulta la mappa del traffico aggiornata in tempo reale. Potrai conoscere la viabilità del luogo in cui ti trovi e avere tutte le info su code, cantieri e altre criticità. Clicca su Mappa e scopri il nuovo servizio su radio24.it. Radio 24. La passione si sente anche in viaggio. Letture di Radio 24. Up in the air. Quando si parla di film tratti da un libro, una delle frasi che si sentono dire più spesso è che il libro è migliore rispetto al film. Ma una recente ricerca smentisce questo luogo comune. Walt Ickey, un giornalista del sito americano di analisi statistica 538, ha incrociato le valutazioni online fatte da critici cinematografici e lettori sui film e i libri che li hanno ispirati, per capire quanto il luogo comune fosse veritiero, e ha indicato i 20 casi con il maggior divario di apprezzamento tra il film e il libro che lo ha ispirato. Ickey ha preso in considerazione i film taggati su Internet Movie Database come tratti da un libro e selezionato i primi 500 secondo le valutazioni di Metacritic, il sito che raccoglie le recensioni pubblicate dai giornalisti online su film, serie TV e videogiochi, sintetizzate in un numero da 0 a 100. È poi risalito alla votazione, espressa da 0 a 5, data dagli utenti di Goodreads, il social network di Amazon dedicato ai libri che permette anche di votarli, ai libri da cui erano tratti i 500 film. In tutto ha raccolto le valutazioni di 382 film e libri che li hanno ispirati. Osservando la classifica, per prima cosa si nota che tutte le recensioni dei libri sono piuttosto alte, tra 2,8 e 4,6, su un massimo di 5. Questo perché le recensioni dei libri fatte dagli utenti, su cui si basa Goodreads, tendono a essere più positive di quelle fatte dai critici, su cui si basa invece Metacritic. Inoltre, i libri in questione sono stati scelti per essere adattati ai film e sono considerati quindi già interessanti o con un certo valore. Dato che le recensioni di film e libri si servono di sistemi diversi, Ickey le ha normalizzate per poterle confrontare meglio, calcolando un punteggio che si basa su quanto il voto del singolo libro o film si allontana dalla media di tutti i libri o tutti i film. «Ho convertito i due blocchi di valutazioni in Z-score», spiega. Cioè, ho calcolato un punteggio basato su quanto un dato film o libro si allontana dalla media dell'intero gruppo, piuttosto che le singole votazioni o il numero di stelle. Questo ci ha permesso di scoprire i peggiori film, relativamente agli altri film, tratti da buoni libri, relativamente a tutti gli altri libri, e viceversa. L'indice Z-score indica la distanza tra il film e il libro. Se è positivo, vuol dire che il film è valutato migliore. Se negativo, il contrario. Tra i film che sono stati molto più apprezzati rispetto ai libri che li hanno ispirati, Tra le nuvole, il film di Jason Reitman con George Clooney nel ruolo di un tagliatore di teste aziendale, è quello con il punteggio relativamente più alto rispetto al relativo libro. Ha una valutazione di 83 su 100 su Metacritic, contrariamente al libro scritto da Walter Kirn, che ha un punteggio di 2,9 su Goodreads. Nei primi 10 posti ci sono molti classici, come Apocalypse Now, valutato 90 dalle recensioni, di Francis Ford Coppola, ispirato da Cuore di Tenebra, di Joseph Conrad, valutato solamente 3,4 su 5, Il Laureato, diretto da Mike Nichols con Dustin Hoffman, basato sul romanzo omonimo di Charles Webb, e Il Dottor Stranamore, diretto da Stanley Kubrick, liberamente tratto dal romanzo Red Alert di Peter George, uscito nel 1958. Un caso particolare è quello del film Mr. Holmes, Il mistero del caso irrisolto, di Bill Condon, uscito nel Regno Unito a febbraio e in Italia il 19 novembre, valutato positivamente rispetto all'omonimo romanzo di Mitch Collin, a cui è ispirato. Un'altra tabella mostra invece i film valutati peggio o molto peggio dei libri da cui sono stati tratti. Quello con il maggior divario è Addicted, un film del 2014 diretto da Billy Woodruff, mai uscito in Italia, basato sull'omonimo romanzo, anche questo non uscito in Italia, della scrittrice americana di bestseller erotici Zane, pseudonimo di Christina Laferne Roberts. Molti titoli della lista sono tratti dalla narrativa per ragazzi, come The Last Song e Vicino a te non ho paura, entrambi scritti dallo scrittore statunitense Nicholas Sparks, che non sono piaciuti nelle rispettive trasposizioni cinematografiche del 2010 e del 2013. Stesso giudizio per il penultimo episodio della saga di Harry Potter, che ha ricevuto delle critiche negative rispetto al libro di J.K. Rowling, e per il secondo episodio della saga di Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo, scritta da Rick Riordan. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Quali libri sono meglio dei film? Dal sito Il Post Libri. Da anni si conosce l'utilità della musica per l'apprendimento fin dai primi giorni di vita del neonato. Un recente studio condotto dall'Università di Helsinki dimostra che la musica può essere utile anche per combattere le forme iniziali di demenza senile. Lo studio ha preso in esame 89 coppie di pazienti con demenza media o moderata. Nel periodo di osservazione si è visto che mentre nelle forme iniziali della patologia il canto può rivelarsi un valido supporto terapeutico, quando la demenza avanza è indicato ascoltare musica, anche senza partecipazione diretta da parte del paziente. Non avrebbe rilevanza ciò che si ascoltava prima dell'insorgenza della patologia che annebbia i ricordi. Lo studio dimostra che il canto migliora la memoria nei pazienti con demenza lieve e l'orientamento nei pazienti più giovani, spiega Massimo Tabaton, docente di neurologia all'Università di Genova. L'ascolto della musica migliora lo stato cognitivo globale nei pazienti con demenza moderata, quindi più grave, e in quelli istituzionalizzati e non Alzheimer. I pazienti con malattia di Alzheimer rispondono invece meno alla terapia musicale. Ancora una volta si conferma che l'attività di svago, fra cui l'ascolto della musica, è un fattore di protezione per la malattia di Alzheimer. Gli studi degli autori finlandesi dimostrano che il canto o l'ascolto della musica, eseguiti in modo sistematico, hanno anche un valore terapeutico nei pazienti con demenza lieve e non Alzheimer, tanto che quelli che hanno risposto meglio soffrivano di demenza vascolare. È probabile che lo stimolo aumenti l'attività sinaptica o promuova la formazione di nuove sinapsi, e ciò si può verificare nelle parti del cervello integre non colpite dalle lesioni vascolari, ma più difficilmente in una patologia degenerativa come l'Alzheimer. Insomma, anche la musica può avere un ruolo nella lotta alla perdita di memoria che isola dal mondo, toglie i ricordi e può essere anche legata a deficit di irrorazione del cervello. Il metodo usato. I pazienti, accoppiati con i propri familiari o badanti, con l'aiuto di un maestro di canto o di un esperto di musica, hanno cantato o ascoltato canzoni popolari per 90 minuti una volta alla settimana per 10 settimane. 30 pazienti di controllo non sono stati trattati. I pazienti e chi li assisteva hanno continuato per ulteriori 6 mesi sessioni settimanali di canto o di ascolto. La scienza sta battendo tutte le strade per tentare di frenare l'avanzata di una patologia che pare inarrestabile. Secondo le stime per l'Unione Europea, entro il 2020 il numero di persone affette da demenza supererà i 15 milioni e i costi relativi, stimati a circa 160 miliardi di euro nel 2008, entro il 2030 aumenteranno di circa il 43%. Sul fronte delle possibili cure, peraltro, qualcosa si muove, soprattutto nei casi in cui la patologia venga scoperta precocemente. E quello che avete ascoltato era l'articolo di Federico Mereta, Proteggiamoci con la musica, dal secolo XIX del 28 dicembre. Quando siamo a casa in ferie, una discreta parte del nostro tempo se ne va per rispondere a telefonate pubblicitarie, spesso da parte di compagnie telefoniche che vogliono informarci di qualche meravigliosa iniziativa o di sconti incredibili riservati solo a noi. Sappiamo bene che se cerchiamo di essere educati e non chiudiamo subito la conversazione, non è sempre così facile liberarsi da questi molestatori. Ma i dati dimostrano chiaramente che sono in pochi a conoscere la normativa predisposta per tutelare i cittadini dalle telefonate pubblicitarie moleste. Come scrive Alessandro Longo sulla Repubblica di venerdì scorso, sono solo 1,44 milioni gli iscritti al registro delle opposizioni, il solo mezzo disponibile oggi per non essere disturbati. Si tratta di una cifra esigua, appena l'1% dei numeri attivi in Italia, continua Longo. Ecco perché il garante della privacy e le associazioni di consumatori tornano alla carica chiedendo nuove regole. Non bastano i 2,6 milioni di euro di multe fatte dal garante fino al 31 dicembre 2015, a seguito di 20.000 segnalazioni di utenti infuriati. Il problema è nelle regole, sostengono in coro garante e associazioni. Vediamo allora quali sono. Se il nostro numero di telefono, fisso o mobile, è presente nell'elenco telefonico pubblico, possiamo decidere di toglierlo in qualsiasi momento. Se ce lo lasciamo, possiamo iscriverlo al registro delle opposizioni. Così facendo, però, vietiamo alle aziende di telemarketing solo una cosa: di usare il numero se lo hanno trovato nell'elenco. Se lo hanno avuto in un altro modo, possono chiamarci comunque, a patto di aver ottenuto il nostro consenso. Il problema è che spesso ce lo estorcono con l'inganno o sfruttando la distrazione. Quando ad esempio attiviamo un'utenza, compriamo un biglietto online, prenotiamo un hotel, compiliamo un modulo per ottenere una promozione o una carta fedeltà. Il punto, spiega Marco Pierani di Altro Consumo, è che le norme italiane sono limitate. Non prevedono un registro per la negazione totale del consenso come in altri paesi europei. Una sorta di registro universale, i cui iscritti non possono essere mai chiamati a scopo di marketing, anche se dovesse risultare che in precedenza hanno acconsentito. Così basta distrarsi un momento, aggiunge Pierani, mettere una X su modulo e non si esce più dal tunnel delle telefonate moleste. Le norme in realtà permettono all'utente di annullare il consenso già dato, ma per farlo bisogna rivolgersi all'azienda cui lo si era concesso. Lo stesso garante riconosce che è complicato. Un registro universale fornirebbe invece la prova inoppugnabile che l'utente non vuole più essere chiamato, assicurando quindi a chi sgarra una maggiore certezza della pena. Come succede oggi per chi utilizza l'elenco telefonico pubblico senza filtrare i numeri iscritti al registro delle opposizioni. Il garante chiede anche una modifica normativa per poter erogare sanzioni più alte delle attuali, da 10 a 120.000 euro. Le aziende di marketing devono pagare per filtrare i propri numeri con il registro delle opposizioni, da 18 euro per un pacchetto di 1.500 numeri a 208.000 euro per uno da 100 milioni. Quindi alcune possono essere tentate di saltare questo passaggio accettando il rischio di una piccola multa. Le lacune sono insomma numerose. In attesa di correzioni normative, per ora non all'orizzonte, agli utenti non resta che difendersi con le armi disponibili, il registro e le segnalazioni al garante. E prestare la massima attenzione quando firmano qualcosa. Quello che avete ascoltato era l'articolo di Alessandro Longo, La nostra battaglia persa contro le telefonate moleste, dalla Repubblica dell'8 gennaio. Mentre in Corea del Nord il caro leader non perde mai un'occasione per rendersi ridicolo davanti a tutto il mondo, in Corea del Sud la comicità involontaria arriva dalla nuova frontiera del team building: motivare gli impiegati attraverso finti funerali. Esistono società apposite, come lo Yowon Healing Center, a cui le aziende commissionano realistiche simulazioni di servizi funebri nei quali gli impiegati, dopo aver scritto struggenti lettere d'addio ai loro cari, vengono chiusi dentro bare di legno per 10 minuti con la sola compagnia di una fotografia di quando erano più giovani e spensierati. Questa sorta di interpretazione con metodo Stanislavski dell'antico e pacificante concetto del memento mori viene organizzata perché gli impiegati riflettano sul senso della vita, rivedano in modo più sano le proprie priorità e finiscano con il ridimensionare i problemi della vita quotidiana. Il tutto di fronte all'idea del tristo mietitore, impersonato da una figura nero vestita che ha l'incarico di chiudere le casse. Perché, si sa, in fondo a tutto c'è rimedio, fuorché... Questa messa in scena catartica può apparire piuttosto bizzarra, ma bisogna anche considerare che l'emergenza suicidi in Corea impone la ricerca di strade innovative per essere trattata. Lo stress e la depressione, conseguenza per il 25% dei sudcoreani dell'ipercompetitività sul lavoro, secondo un'analisi della Korean Neuropsychiatric Association, si sono ormai trasformati in una vera piaga per il paese. Il suicidio è la quarta causa di morte più comune, la prima per chi ha meno di 30 anni, e ogni giorno sono circa 40 i sudcoreani che si tolgono la vita, gli uomini con frequenza doppia rispetto alle donne. Tutto questo fa della Corea del Sud la nazione con più suicidi pro capite tra i paesi industrializzati. E quello che avete ascoltato era l'articolo di Giuliano Aluffi, Impiegati nella bara, così apprezzano la vita, dal venerdì di Repubblica dell'8 gennaio.